L'emergenza si produce sempre in un certo stato delle forze. Mi pare evidente che il Nietzsche che viene fuori qua è il Nietzsche di Deleuze, cioè il Nietzsche in cui la potenza non è altro che una esplicazione delle forze che si affrontano. L'emergenza è dunque l'entrata in scena delle forze e la loro irruzione, il balzo con il quale dalle quinte saltano sul teatro ciascuna con il vigore e la giovinezza che le è propria. Ciò che Nietzsche chiama l'Entstehungsherd, quindi la Herd, diciamo l'eredità della nascita, l'eredità dell'origine, del concetto di buono, non è esattamente né l'energia dei forti né la reazione dei deboli, ma appunto questa scena dove si distribuiscono gli uni di fronte agli altri, gli uni al di sopra degli altri, è lo spazio che li ripartisce e si scava tra loro, il vuoto attraverso il quale si scambiano minacce e parole. Nella genealogia della morale, Nietzsche aveva, ve l'ho già accennato, ma forse troppo poco, quindi bisogna tornarci appena un poco più su, nelle tre dissertazioni che compongono la genealogia della morale, Nietzsche aveva destrutturato, diciamo, il concetto, le polarità tradizionali della morale, cioè buono e malvagio, buono e cattivo, eccetera, nella prima di queste tre dissertazioni in modo particolare, mostrando come la bontà e la malvagità non fossero altro che che il carattere morale di questi attributi non fosse altro che il prodotto di una sorta di abitudine, che diceva bene, le cose che hanno fatto gli individui attivi, quelli che lui chiama individui superiori, a volte li chiama nobili, a volte li chiama, vi prego però di non prendere il senso troppo letterale neanche questo modo di parlare di Nietzsche, insomma, anche poi ci sono ovviamente i riferimenti, eccetera, eccetera. Allora, in effetti a me pare che la lettura che qui Foucault dà di Nietzsche è un po' così, cioè non è vero che nella genealogia della morale l'origine del concetto di buono non sia l'energia dei forti e la reazione dei deboli. Però evidentemente il modo in cui Foucault legge Nietzsche, rileggo quello che ho detto prima, è non tanto l'energia, la forza dei forti, ma dice Foucault, la scena dove si distribuiscono gli uni di fronte agli altri, lo spazio che li ripartisce e si scava tra loro. E questo modo di fare è tipico della cosa di Foucault. Magari leggiamo un attimo un pezzo della genealogia di Nietzsche per far capire, sempre dalla prima dissertazione, buono e malvagio, buono e cattivo. È buffo, insomma, qui fa. Perché, dice Nietzsche, il concetto di buono deriva dall'uomo, deriva dal sentimento, dalla sensazione del debole, cioè di quello che lui chiama l'uomo del risentimento, quello che è vittima del più potente, del più forte. Nietzsche, adesso stiamo vedendo Nietzsche, ricorre a una metafora, insomma, zoologica animale. Che gli agnelli nutrano avversione per i grandi uccelli rapaci è un fatto che non sorprende, solo che non v'è in ciò alcun motivo per rimproverare ai grandi uccelli rapaci di impadronirsi degli agnellini. E se gli agnelli si vanno dicendo tra loro, questi rapaci sono malvagi, e chi è il meno possibile uccello rapace, anzi il suo opposto, un agnello, non dovrebbe forse essere buono? Su questa maniera di erigere un ideale non ci sarebbe nulla da ridire, salvo il fatto che gli uccelli rapaci guarderanno a tutto ciò con un certo scherno, gli uccelli rapaci, e diranno forse, con loro non ce l'abbiamo affatto noi, con questi buoni agnelli, addirittura li amiamo, nulla è più saporito di un tenero agnello. Pretendere dalla forza che non si estrinsechi come forza, che non sia un voler sopraffare, un voler abbattere, un voler signoreggiare, una sete di nemici e di opposizioni e di trionfi, è precisamente così assurdo come pretendere dalla debolezza che essa si estrinsechi come forza. Un quantum di forza è esattamente un tale quantum di istinti, di volontà, di attività. Anzi, esso non è precisamente null'altro che questi istinti, questa volontà, questa attività stessa, e può apparire diversamente soltanto sotto la seduzione della lingua e degli errori radicali in essa pietrificati della ragione. A questo punto della sua, elaborazione Nietzsche è già arrivato a intendere la gran parte dello sviluppo della storia umana come una serie di errori degli esseri umani che travisano costantemente tramite il linguaggio non il senso, la vera ragione in qualche maniera, la vera logica di ciò che fanno, e chiamano questo travisamento senso, significato, senso della storia, eccetera, eccetera. Questa è la destrutturazione nicciana dell'hegelismo. Allo stesso modo, infatti, con cui il volgo separa il fulmine dal suo bagliore e ritiene quest'ultimo un fare, una produzione di un soggetto, è Nietzsche, questo, che viene chiamato fulmine, così la morale del volgo tiene anche la forza distinta dalle estrinsecazioni della forza, come se dietro il forte esistesse un sostrato indifferente al quale sarebbe stato consentito di estrinsecare forza oppure no. Ma un tale sostrato non esiste. Non esiste alcun essere al di sotto del fare, dell'agire, del divenire. Colui che fa non è che fittiziamente aggiunto al fare. Il fare è tutto. Il volgo, in fondo, duplica il fare. Allorché vede il fulmine mandare un barbaglio, questo è un far fare, pone lo stesso evento prima come causa e poi ancora una volta come effetto di essa. I naturalisti non agiscono in modo migliore quando dicono la forza muove, la forza cagiona e simili. La nostra intera scienza, oltre a tutta la sua freddezza, della sua estraneità ai moti affettivi, sta ancora sotto la seduzione della lingua e non si è sbarazzata di questi falsi infanti supposti, i soggetti. L'atomo, per esempio, è un siffatto infante supposto, così come la kantiana cosa in sé. E ce n'è per tutti qua, Non ne manda a dire. Non c'è da stupirsi che se le passioni rintuzzate, nascostamente covanti sotto la cenere della vendetta e dell'odio, sfruttino a proprio vantaggio questa credenza, giungendo in definitiva a non mantenere in piedi con maggiore fervore alcun'altra persuasione, salvo quella che il forte è padrone d'essere debole e l'uccello rapace di essere agnello. Quindi, figuriamoci. In tal modo esse si acquisiscono per l'appunto il diritto di imputare all'uccello rapace il fatto di essere un uccello rapace. E se gli oppressi, conculcati, soggiogati, mossi dall'astuzia, avida di vendetta, dell'impotenza, si inducono a dire dobbiamo essere diversi dai malvagi, cioè buoni, e buono è chiunque non usa violenza, non reca danno a nessuno, non aggredisce, non fa rappresaglia, rimette a Dio la vendetta, si tiene come noi nascosto, fugge ogni malvagità e al pari di noi, gente paziente, umile e giusta, pretende poche cose dalla vita. Tutto ciò, se lo si ascolta freddamente, senza prevenzioni, in verità non vuol dire altro che questo. Noi deboli siamo decisamente deboli, è bene se non facciamo alcuna cosa per la quale non si è forti abbastanza. Ma questo crudo stato di fatto, questa prudenza di infimo rango che possiedono persino gli insetti, i quali in caso di grande pericolo si fingono morti per non fare nulla di troppo, grazie a quell'arte da falsare e a quella mendacità davanti a se stessi che è proprio dell'impotenza, si dà il pomposo travestimento della virtù rinunciataria, silenziosa, aspettante, come se la debolezza del debole, vale a dire la sua essenza, la sua produttività, la sua intera, unica, inevitabile, irredimibile realtà, fosse un effetto arbitrario, qualcosa di voluto, di scelto, un'azione, un merito. E invece, dice Nietzsche, non è nessun merito. Torniamo a Foucault. Foucault non accentua questa, però ve l'ho letto per darvi un'idea. Questo è il modo in cui Nietzsche in quest'opera, che è una delle sue ultime, destruttura tutta la... però certamente c'è in questa quello che Foucault ricava da questa lettura di Nietzsche può essere più o meno sintetizzato così. L'umanità non progredisce lentamente di lotta in lotta sino a una reciprocità universale, questo è Foucault, dove le regole si sostituiranno per sempre alla guerra. Essa insedia ciascuna delle sue violenze in un sistema di regole e avanza così di dominazione in dominazione. È la regola, dice Foucault, che permette che violenza sia fatta alla violenza e che un'altra dominazione possa piegare quegli stessi che la dominano. In se stesse le regole sono vuote, violente, non finalizzate, sono fatte per servire a questo o a quello, possono essere piegate al volere di tale o di tal altro. Il grande gioco della storia sta in chi si impadronirà delle regole, chi prenderà il posto di quelli che le utilizzano, chi si travestirà per pervertirle, le utilizzerà a controsenso e le rivolgerà contro quelli che le avevano imposte. E qui veniamo a, allora queste regole in qualche modo, c'è un lavoro di interpretazione su queste regole, certo, vanno interpretate, attenzione, ma se interpretare è impadronirsi attraverso violenza o subrezione di un sistema di regole che non ha un significato essenziale, no, leggiamo prima l'altra, se, cancelliamo, se interpretare fosse mettere lentamente in luce un significato nascosto nell'origine, solo la metafisica potrebbe interpretare il divenire dell'umanità, ovviamente. Ma se interpretare è impadronirsi attraverso violenza o subrezione di un sistema di regole che non ha un significato essenziale in sé, e imporgli una direzione, piegarlo a una volontà nuova, farlo entrare in un altro gioco e sottometterlo ad altre regole, allora il divenire dell'umanità è una serie di interpretazioni. E la genealogia deve essere nella storia, nuova definizione di genealogia. Genealogia è la storia della serie di interpretazioni con le quali l'umanità trasforma e domina, controlla le proprie regole, le regole che ci ha dato. E la genealogia deve essere la storia, storia delle morali, degli ideali, dei concetti metafisici, storia del concetto di libertà o della vita ascetica, come emergenze di interpretazioni diverse. Si tratta di farle apparire come avvenimenti sul teatro delle procedure. E infatti nel capitoletto successivo, che è il 5, il tema fondamentale è la storia e il divenire. Torniamo a Nietzsche per un attimo. In un'opera, abbiamo letto, giovanile, quindi giovanile, relativamente giovanile, quindi precedente allo stadio del Nietzsche maturo, ma che contiene comunque, che è la seconda delle considerazioni inattuali, e cioè sull'utilità e il danno della storia, Nietzsche aveva introdotto una sorta di tripartizione della storia, spiegando come ognuno di questi tre aspetti che adesso diremo della storia potesse essere, come dire, utile o, diciamo, dannoso, utilità e danno della storia, a seconda delle intenzioni che avete. Siccome poi Foucault riprenderà questa tripartizione, ci passiamo sopra brevemente, cioè la spieghiamo brevemente. Le tre specie di storia di cui parla Nietzsche in questo saggio sono la storia monumentale, la storia antiquaria e la storia critica, così le chiama lui. La storia monumentale, antiquaria e critica. Critica è la terza. Potete, se volete, sicuramente pensare a quello che aveva scritto Foucault nell'introduzione alla filologia del sapere, cioè la questione della trasformazione dei monumenti in documenti, più o meno ha a che fare con questa cosa. La storia monumentale è la storia, diciamo, che occorre, dice Nietzsche, all'attivo e al potente, a colui che combatte una grande battaglia e che ha bisogno di modelli, maestri e consolatori, e che non può trovarli tra i suoi compagni e nel presente. Così essa occorreva a Schiller, il nostro tempo è così cattivo, infatti, dice Goethe, che nella vita umana che lo attorna il poeta non incontra più nessuna natura utilizzabile. Ecco quindi che c'è questa che i grandi momenti nella lotta degli individui formino una catena che attraverso di essi si formi lungo i millenni la cresta montuosa dell'umanità, che per me le vette di tali momenti da lungo tempo trascorsi siano ancora vive, chiare e grandi. Questo è il pensiero fondamentale di una fede nell'umanità che si esprime nell'esigenza di una storia monumentale. Ora qui però, dopodiché si passa, adesso qui non abbiamo il tempo di fermarci su tutto quello che... Allora, questa è la storia monumentale, quindi la storia, come dire, in qualche modo come incitamento all'azione. Ah, c'è questa casa, quindi posso fare anch'io, quindi posso. La storia antiquaria invece è la storia del contemplativo, cioè la storia di colui che non vuole fare nulla che non vuole fare nulla di particolarmente attivo nel, come dire, presente, e che quindi invece come dire, si limita a contemplarla questa storia, la mette nell'antiquario, la mette nella sua collezioncina privata, si fa dei belli armadietti, delle belle teche, ci mette dentro i monumentini, diciamo, in qualche modo. Questa è la storia antiquaria. La storia critica è la storia invece che dalla considerazione del passato trae non una serie di esempi come la storia monumentale per il presente, o di ispirazioni o di cose di questo tipo, ma una serie di come si potrebbe dire, di controesempio, di controindicazioni o di ma insomma, però se le cose sono andate così, se e che si diciamo, è l'atteggiamento verso la storia che almeno apparentemente aveva l'illuminismo, cioè l'Aufklärung, la decostruzione del discorso autocelebrativo degli altri due generi di storia. Ora però in tutti e tre i casi, vabbè, insomma, adesso Nietzsche poi in realtà parte da una posizione apparentemente equanime nei confronti di queste tre storie, però praticamente ci spiega che nessuna di queste tre storie poi, cioè se viene, come dire, se ce n'è un uso eccessivo, la storia come dire, genera alcune controindicazioni abbastanza potenti, cioè abbastanza sgradevoli per Nietzsche, di cui segnalo solo che mi pare che il più sgradevole per lui sia quello che lui chiama l'interiorità, cioè la nascita di questo ripiegamento dell'uomo su se stesso e la presunzione di avere al proprio interno una dimensione nascosta, segreta, autentica, eccetera, eccetera, che sarebbe quella che lo potrebbe riscattare da tutto il resto delle cose, e su cui Nietzsche ironizzerà molto di più nelle opere successive, ma già in questa gli dà delle porte abbastanza. Mettiamo via Nietzsche, torniamo a Foucault. Quindi, quali sono i rapporti, si chiede Foucault, fra la genealogia definita come ricerca della Herkunft e della Entstehung, quella che si chiama di solito la storia? Foucault riassume così il discorso, diciamo, di Nietzsche. Nei fatti, ciò che Nietzsche non ha mai smesso di criticare dalla seconda delle inattuali in poi è questa forma di storia che reintroduce e suppone sempre il punto di vista soprastorico, guardare la storia da un altro, ecco qua, una storia che avrebbe la funzione di raccogliere in una totalità ben rinchiusa su di sé la diversità infine ridotta del tempo. Una storia che ci permetterebbe di riconoscerci dovunque e di dare a tutte le trasformazioni del passato la forma della riconciliazione. Una storia che getterebbe dietro di sé uno sguardo da fine del mondo. Dov'è? Questa storia degli storici si dà un punto d'appoggio fuori del tempo, pretende di giudicare tutto secondo un'obiettività da apocalisse. In realtà ha supposto una verità eterna, un'anima che non muore, una coscienza sempre identica a se stessa. La vera ragione per la quale Foucault si vuole dedicare a questo genere di studi e non a quelli della storia tradizionale è questa, è perché la storia tradizionale, la storia in tutte e tre le sue articolazioni, come più o meno l'aveva suggerito Nietzsche, presuppone questa posizione. La posizione soprastorica non è altro che il luogo del soggetto stabilito, mutabile soltanto all'interno di una propria logica conosciuta, descrivibile, eccetera, eccetera, quindi è una scarsa, come dire, mutazione. E qui Foucault introduce invece valorizza una osservazione un po' en passant di Nietzsche della seconda in attuale, che è la contrapposizione della storia degli storici o della storia monumentale e antiquaria a quella che Nietzsche chiama la wirkliche Historie, la vera storia, la storia reale, wirkliche. Noi crediamo, si chiede Foucault, alla perennità dei sentimenti, ma tutti, e soprattutto quelli che ci sembrano i più nobili e i più disinteressati, hanno una storia. Crediamo alla sorda costanza degli istinti e immaginiamo che siano sempre all'opera, qui e là, ora come un tempo, ma il sapere storico non ha difficoltà a smontarli, a mostrare le loro trasformazioni, a individuare i loro momenti di forza e di debolezza, ad identificare i loro regni alterni, a cogliere nella lenta elaborazione i movimenti attraverso i quali, rivoltandosi contro se stessi, si possono accanirsi sulla propria distruzione. La storia effettiva, la wirkliche Historie, si distingue da quella degli storici per il fatto che non si fonda su nessuna costante, non si fonda su nessuna costante. Nulla nell'uomo, nemmeno il suo corpo, è abbastanza saldo per comprendere gli altri uomini e riconoscersi in essi. Tutto ciò a cui si appoggia per rivolgersi verso la storia e coglierla nella sua totalità, tutto ciò che permette di descriverla come un paziente movimento continuo, è tutto questo che si tratta di spezzare sistematicamente. Bisogna fare a pezzi ciò che permetteva il gioco consolante dei riconoscimenti. Sapere, anche nell'ordine storico, non significa ritrovare, ancor meno ritrovarci. La storia sarà effettiva nella misura in cui introdurrà il discontinuo nel nostro stesso essere, dividerà i nostri sentimenti, drammatizzerà i nostri istinti, moltiplicherà il nostro corpo e lo opporrà a se stesso. Conclusione fulminante. Il sapere non è fatto per comprendere, è fatto per prendere posizione. Il sapere è uno strumento di lotta, è uno strumento di intervento nel reale. Non è che sto lì e contemplo, che bello, comprendo, ma è fatto per prendere posizione. E quindi la genealogia della storia, come nasce la storia. La filiazione dello storico, scrive Nietzsche, risale sino a Socrate. Ma questa demagogia deve essere ipocrita, deve nascondere il suo singolare rancore sotto la maschera dell'universale. L'origine della storia è umile, è nei bassifondi, è come tutte le origini di tutte le attività umane, ma naturalmente lo storico, dotato di questo punto di vista soprastorico, eccetera, dirà, nasconderà, rimuoverà questa, origine. E l'esempio che fa, Foucault, che mi pare particolarmente, particolarmente calzante, è quello dell'Europa. Passiamo alla Entstehung della storia, scrive Foucault. Il suo luogo è l'Europa del XIX secolo, patria delle mescolanze e degli imbastardimenti, epoca dell'uomo mistura. Rispetto ai momenti di grande civiltà, eccoci come i barbari. Abbiamo dinanzi agli occhi città in rovina e monumenti enigmatici, siamo immobili dinanzi a mura spalancate. Ci domandiamo quali dei abbiano potuto abitare tutti questi templi vuoti. Le grandi epoche non avevano tali curiosità, né si grandi rispetti, non si riconoscevano predecessori. Il classicismo ignorava Shakespeare. La decadenza dell'Europa ci offre uno spettacolo immenso di cui i momenti più forti si privano o fanno a meno. Ma se tale è appunto la genealogia della storia, come può accadere che essa stessa divenga analisi genealogica? Come può non restare una conoscenza demagogica e religiosa? Come può su questa stessa scena cambiare di ruolo? Se non soltanto perché ci si impadronisce di essa, perché la si padroneggia e la si rivolge contro la sua nascita. Tale appunto è la caratteristica della Entstehung. Non è il risultato necessario di quello che per tanto tempo era stato preparato in anticipo. È la scena dove le forze si mettono a rischio e si affrontano, dove accade che esse trionfino, ma dove le si può catturare. Non c'è mai un esito del confronto e del conflitto stabilito a priori, come c'è nella dialettica hegeliana. C'è il rischio, c'è il caso, le cose possono andare in un modo, possono andare in un altro. I rapporti di forza sono mobili, facilmente o difficilmente rovesciabili, ma rovesciabili. Il luogo di emergenza della metafisica era la demagogia ateniese, il rancore plebeo di Socrate, la sua credenza nell'immortalità. Ma Platone avrebbe potuto impadronirsi di questa filosofia socratica, avrebbe potuto rivolgerla contro se stessa, e probabilmente più di una volta è stato tentato di farlo. La sconfitta di Platone, è di essere giunto a fondarla, a fondare la filosofia socratica, quindi a partire da quell'aspetto plebeo, rancoroso del risentimento, direbbe Nietzsche, e a fondarla, dargli un fondamento, almeno una apparenza di struttura stabile. Il problema del XIX secolo è di non fare per l'ascetismo popolare degli storici quello che Platone ha fatto per quello di Socrate. Bisogna non fondarlo in una filosofia della storia, disfarlo a partire da ciò che ha prodotto, rendersi padroni della storia per farne un uso genealogico, cioè un uso rigorosamente antiplatonico. È allora che il senso storico si libererà dalla storia sovrastorica, da questa sorta di cappa ideale eterna. E qui arriviamo alla più o meno conclusione del saggio di Nietzsche, di Foucault. Paragrafo settimo. I tre usi della storia. È qua che Foucault riprende, credo che gli cambia un po' nome, però se ci pensate bene li riconoscerete. Il senso storico comporta tre usi che si oppongono punto per punto alle tre modalità platoniche o niceane della storia, non so perché dice platoniche qua. Uno è l'uso parodistico e distruttore di realtà, che si oppone al tema della storia reminiscenza o riconoscimento, quindi non reminiscenza ma parodia, distaccazione, parodiare la storia, il passato. L'altro è l'uso dissociativo e distruttore di identità, che si oppone alla storia continuità o tradizione. Noi veniamo da lì, noi abbiamo questa origine, noi siamo gli eredi di questa realtà. No, noi siamo dei bastardi, noi siamo mescolati, non c'è l'identità, Adesso vedrete che cosa dice, diciamo, dell'Europa, che è dell'europeo, che è il personaggio che, diciamo, passeggia per tutto questo finale del saggio di Foucault. Il terzo è l'uso sacrificale e distruttore di verità, che si oppone alla storia conoscenza. Uso sacrificale e distruttore di verità. In ogni modo si tratta di fare della storia un uso che la liberi per sempre dal modello, insieme metafisico e antropologico, della memoria. Non voglio fare cose troppo attuali, ma se voi pensate al carattere grottesco che hanno in tutti i paesi d'Europa le celebrazioni della Shoah, in questo che si chiama giorno della memoria, eccetera, e che non è tutto scritto qua, non è nient'altro che una sorta di monumentalizzazione e quindi di neutralizzazione, non c'è più nessuna memoria, poi non si capisce di cosa, perché nessuno, fra un po' sono morti gli ultimi che hanno una memoria diretta, e quindi non ha alcun senso mettersi lì a preservare un qualche cosa, ma soprattutto non ha senso, non ha senso non fare di della ripresa e dello studio del lavoro critico intorno a quello che è successo una arma e uno strumento per l'oggi. Ma evidentemente, come vedremo meglio nella prossima lezione, tutto il discorso della cultura occidentale sui totalitarismi del Novecento, in particolare sul nazismo, è un discorso consolatorio, perché pretende di interpretarlo come un episodio come una degenerazione, come un qualche cosa, mentre invece esso è Foucault, il bisogno della società, bisogna difendere la società, ho avuto un lapsus, quello che bisogna distruggere, bisogna difendere la società, lo spiegherà bene come il nazismo è invece un pezzo organico, uno degli esiti possibili e l'esito che obiettivamente si è reso possibile delle premesse dell'intero Occidente. L'Occidente non può disconoscere il nazismo come un figlio bastardo, come qualcosa che non gli appartiene, come una diciamo inopportuna deviazione del... No, è lì. E la stessa cosa, grosso modo, mi pare quello che dice qua Foucault. Quindi uso parodistico e buffonesco a quest'uomo mescolato e anonimo che è l'europeo e che non sa più chi sia, che nome debba portare, lo storico offre delle identità di ricambio, in apparenza meglio individualizzate e più reali della sua, ma l'uomo del senso storico non deve ingannarsi su questo sostituto che gli si offre, non è che un travestimento. Volta a volta si è offerto alla rivoluzione il modello romano, al romanticismo l'armatura del cavaliere, all'epoca wagneriana la spalla dell'eroe germanico, ma sono orpelli la cui realtà rinvia alla nostra propria irrealtà. Liberi coloro che vogliono di venerare queste religioni e di celebrare a Bayreuth la memoria di questo nuovo al di là. Liberi di farsi rigattieri di identità vuote. Mi piace questo, rigattieri di identità vuote, ragazzi. Siamo stati tutti, in qualche modo, in qualche momento, vogliono costringerci, tutto il dispositivo sociale tende a cercare di farci dei rigattieri di identità nuove, la nostra, quella, come dire, degli altri, quella in cui vogliono conoscersi, perché questa è la paranoia identitaria, questa al fondo, cioè diciamo il razzismo è anche di questo. Parleremo meglio la volta prossima. In Europa non è, diciamo in Europa, insomma la cultura occidentale, non è odioso tanto e solo per il fatto che non rispetta le identità altrui, ma proprio perché è basato su una superfettazione, su un accrescimento, su una. C'è questo lievito della identità che si inserisce nella pasta diciamo sociale e la fa gonfiare la realtà, ma è una è chiaro che è come dire che è un'operazione artificiale, non perché nasconda una super identità segreta come i supereroi, Batman è Bruce Wayne è Batman, non è che uno sia più autentico dell'altro, di volta in volta è quella cosa, diciamo, contestualmente, dipende da quello che uno fa. Piuttosto che identificare la nostra pallida individualità alle identità fortemente reali del passato, si tratta di irrealizzarci in tante identità riapparse, e riprendendo tutte queste maschere, Federico di Hohenstaufen, Cesare, Gesù, Dioniso, Zarathustra forse, ricominciando la buffoneria della storia, riassumeremo come nostra l'irrealtà più irreale del Dio che l'ha condotta. Ecco quindi la parodia, questa è la parodia della storia monumentale, no? Altro uso della storia, dissociazione sistematica della nostra identità, perché questa identità pur debole, che cerchiamo di assicurare e di raccogliere sotto una maschera, non è che una parodia, il plurale la abita, anime innumerevoli vi si disputano, i sistemi si incrociano e vi dominano gli uni con gli altri. Quando si è studiata la storia ci si sente felici, dice Nietzsche, in contrapposizione ai metafisici, di albergare in sé non un'anima immortale, bensì molte anime mortali. Dal viandante alla sua ombra, questo. E in una di queste anime la storia non scoprirà un'identità dimenticata, sempre pronta a rinascere, ma un sistema complesso di elementi a loro volta molteplici e distinti che nessun potere di sintesi domina. L'uso a antiquario, se la genealogia pone a sua volta la questione del suolo che ci ha visti nascere, della lingua che parliamo o delle leggi che ci governano, è per mettere in luce i sistemi eterogenei che sotto la maschera del nostro io ci interdicono ogni identità. Terzo uso della storia, il sacrificio del soggetto della conoscenza. In apparenza, o piuttosto sotto la maschera che porta, la coscienza storica è neutra, spoglia di ogni passione, accanita soltanto alla verità. Ma se essa si interroga, e se in modo più generale interroga ogni coscienza scientifica nella sua storia, scopre allora le forme e trasformazioni della volontà di sapere, che è istinto, passione, accanimento inquisitorio, raffinatezza crudele, cattiveria, scopre la violenza dei partiti presi, partito preso contro la pubblicità ignorante, contro le illusioni vigorose attraverso le quali l'umanità si protegge, partito preso per tutto quello che c'è di pericoloso nella ricerca e di inquietante nella scoperta. L'analisi storica di questo grande volere sapere che percorre l'umanità fa dunque apparire insieme che non c'è conoscenza che non riposi sull'ingiustizia, che non c'è dunque nella conoscenza stessa un diritto alla verità o un fondamento del vero, e che l'istinto di conoscenza è cattivo, che c'è in lui qualcosa di omicida e che non può, non vuole niente per la felicità degli uomini. Prendendo come fa oggi le sue dimensioni più ampie, il volere sapere non si accosta a una verità universale, non dà all'uomo un'esatta e serena padronanza della natura. Al contrario, non cessa di moltiplicare i rischi, dappertutto fa crescere i pericoli, abbatte le proiezioni illusorie, disfa l'unità del soggetto, libera in lui tutto ciò che si accanisce a dissociarlo e a distruggerlo. Il sapere, invece di distaccarsi a poco dalle sue radici empiriche, dagli eventi, da ciò che ancora l'uomo al suolo della sua esperienza, o dai primi bisogni che l'hanno fatto nascere, per divenire pura speculazione sottomessa alle sole esigenze della ragione, invece di essere legato al suo sviluppo, il sapere sempre, nel suo sviluppo, alla costituzione, alla formazione di un soggetto libero, porta con sé un accanimento sempre più grande. La violenza istintiva si accelera in lui e si accresce. Le religioni un tempo chiedevano il sacrificio del corpo umano. Il sapere chiama oggi a fare esperienza su noi stessi, al sacrificio del soggetto della conoscenza. In noi la conoscenza si è mutata, questo è da Aurora, quindi è Nietzsche che parla, in noi la conoscenza si è mutata nella passione che non teme nessun sacrificio, in fondo di nulla ha paura se non del suo proprio estinguersi. Forse potrà anche darsi che l'umanità perisca per questa passione della conoscenza. Sto facendo una serie di lezioni a Brera su una ipotesi che sta venendo fuori in alcuni biologi e in alcuni linguisti, e cioè che la specie umana sarebbe una specie destinata all'estinzione, cioè a finire prima o poi con tutte le specie, come ovvio, insomma, ma a non avere eredi, noi siamo Homo sapiens, è l'ultimo di una abbastanza lunga serie di altre specie del genere Homo o di altre specie di generi simili, insomma, tutti quanti gli omidi. Gli omidi, se li mettete insieme, saranno una quindicina di specie, insomma, tra Australopithecus, Paranthropus, alcuni dicono, e Homo. Ma stranamente noi oggi siamo la specie Homo sapiens, è un caso quasi unico sulla storia della vita nella Terra, perché siamo un genere con un'unica specie, cioè Homo e se sapiens, non ce ne più. Tutte le altre specie di Homo si sono estinte, chi lo sa, insomma l'ultima l'abbiamo estinta, probabilmente l'ha estinta Sapiens, era Neanderthalensis, e non più di 30.000-40.000 anni fa, quindi un soffietto proprio, una cosa così. Ebbene, questo, cioè, adesso non voglio farvela lunga, perché chi vuole si legge un libro di Pennisi e Falzone che è uscito da poco, uscito l'anno scorso, dal Mulino, si chiama Il prezzo del linguaggio, in cui questi due filosofi del linguaggio e psicologi italiani argomentano esattamente, cioè spiegano i dispositivi biologici e culturali in base ai quali si può spiegare, insomma, che la specie umana non ha futuro, non ha, non, non, non, cioè finiti noi, finito Homo sapiens, non ci sarebbe stato. Mi pare che Nietzsche le avesse già viste queste cose prima, perché quando Nietzsche dice se l'umanità, forse potrà anche darsi che l'umanità perisca per questa passione della conoscenza, ora questo è il linguaggio, non è altro che questo, no? La passione della conoscenza, che cos'è? Parlare, costruire, dare, ma questa porta, quindi, e infine parla sempre Nietzsche, se l'umanità non trova per una passione la sua distruzione, la troverà per una sua debolezza. Che cosa si preferisce? Si chiede il Nietzsche maturo. E questo è il problema principale. Vogliamo per essa, per l'umanità, un epilogo nel fuoco e nella luce oppure nella polvere? A questi due grandi problemi che si sono diviso il pensiero filosofico, adesso invece è Foucault che parla, ai due grandi problemi che si sono diviso il pensiero filosofico del XIX secolo, fondazione reciproca della verità e della libertà, soltanto il soggetto libero può fondare, può dire il vero e quindi può fondare la verità, possibilità di un sapere assoluto, una volta che esiste questo sapere assoluto, esiste l'enciclopedia delle scienze filosofiche, esiste il punto di vista generale al termine del quale non c'è più storia, come è ovvio, quando abbiamo raggiunto il sapere assoluto. Quindi questi due temi maggiori trasmessi da Fichte e da Hegel, è tempo di sostituire il tema che, parla sempre Nietzsche, potrebbe persino appartenere alla costituzione fondamentale dell'esistenza, il fatto che chi giunge alla perfetta conoscenza incontri l'annullamento, al di là del bene e del male. 39. Il primitivo rimprovero che Nietzsche faceva alla storia nella seconda inattuale era, per esempio Nietzsche in questo testo rimprovera all'uso critico della storia di staccarci da tutte le nostre fonti reali e di sacrificare il movimento stesso della vita alla sola preoccupazione della verità. Un po' più tardi Nietzsche riprende a suo conto quello che allora rifiutava, lo riprende ma a tutt'altro fine, non si tratta più di giudicare il nostro passato in nome di una verità che il nostro presente sarebbe il solo a possedere, si tratta di rischiare la distruzione del soggetto della conoscenza nella volontà indefinitamente dispiegata di sapere, la volontà di sapere portata al suo estremo eccesso distrugge il soggetto della conoscenza. In un certo senso la genealogia, questo è il finale del testo di Foucault, ritorna alle tre modalità della storia che Nietzsche riconosceva nel 1874. Vi ritorna al di là delle obiezioni che egli allora faceva loro in nome della vita, del suo potere di affermare e di creare, ma vi ritorna trasformandole. La venerazione dei monumenti diventa parodia. Il rispetto delle antiche continuità diventa dissociazione sistematica. La critica delle ingiustizie del passato in nome della verità che l'uomo detiene oggi diventa distruzione del soggetto della conoscenza attraverso l'ingiustizia propria alla volontà di sapere. Se mettete insieme dalle poche cose che vi ho detto l'ordine del discorso e questo breve saggio su Nietzsche e la filosofia della storia, voi capite qual è il programma, diciamo, di ricerca che agli inizi degli anni 70 si dà Foucault. Ripercorrere, rinominare i rapporti tra volontà e verità. Tra volontà di sapere e costruzione della sua verità. Analisi e analisi o insomma diciamo e esplorazione dei non dei modi di distruzione di un soggetto già dato, perché tutta questa insieme di cose consente a Foucault di operare un rovesciamento che adesso vedremo descritto chiarissimamente all'inizio di Bisogna difendere la società o in un altro testo che vi leggerò dalla nascita della biopolitica. Invece di partire, invece di dare per assodato che esistano le figure fondamentali, i protagonisti fondamentali della pièce, diciamo teatrale, e poi vedere come questi se la cavano, certamente, perché cambiano, perché fanno delle cose, perché interagiscono il soggetto, il sapere, la verità, tutto quanto. No, Foucault non dice che questo modo di pensare è sbagliato, dice si può fare, certo, è quello che praticamente la filosofia e anche la storia hanno sempre fatto, quasi maggioritariamente sino ad oggi, ma attraverso questo, se noi facciamo così, cioè se noi descriviamo le trasformazioni, anche l'annullamento, anche il suicidio del soggetto, che cosa, diciamo, di che cosa ci priviamo? Che cosa non siamo in grado di capire? Non siamo in grado di sapere come è nato quel soggetto. A dispetto di tutta la nostra, la nostra passione, il nostro investimento nel trovare l'origine mitica quando sono successe le cose, noi in realtà non sappiamo come si è formato il soggetto, non sappiamo come si è formata la verità, non sappiamo come si è formata la scienza, non sappiamo come si è formata l'episteme, non sappiamo nulla di queste cose se non ribaltiamo il punto di vista. Non dobbiamo presumere che quel soggetto ci sia e ci dica quello che farà da ora in poi. Andiamo a vedere come si è costituito il soggetto, se si è costituito. Andiamo a vedere quali sono i passi concreti che ha fatto. E quindi ecco il radicamento nell'esperienza. Ah, qui naturalmente bisogna vedere, perché per fare questo lavoro, bisogna fare una scelta, certo, bisogna scegliere quali sono le caratteristiche, quali sono i tratti fondamentali dell'esperienza che è interessante analizzare, e qui adesso vedremo quali sono. Quindi, genealogia del soggetto, genealogia della verità, genealogia del rapporto fra soggetto e verità, cioè del sapere. Questo è il programma di Foucault, che emerge chiaramente sulla scorta, evidentemente in gran parte di Nietzsche, ma anche di altre sue letture, di altre sue intuizioni, e che capite benissimo che è un programma quasi del tutto unico nella filosofia del Novecento. Quasi del tutto unico, neanche Deleuze, che è il suo compagno più intimo quasi in queste, perché parte come lui da Nietzsche, no, in realtà siccome Deleuze parte più da Spinoza che non da Nietzsche, e siccome Deleuze, come dire, insomma, rilegge in salsa nietzscheana, ma come dire, Spinoza, diciamo, Deleuze non perderà mai quel fondo di universalismo che, diciamo, gli deriva dal suo spinozismo. Foucault mi pare più libero di questa cosa, perché certamente si è formato anche lui su delle tradizioni, però i suoi punti di riferimento sono, diciamo, sono kantiani o post-kantiani. Sono Kant e il neo-kantismo, sono Husserl, sono lo strutturalismo e l'attenzione a tutte le ricerche concrete che ha fatto lo strutturalismo o che ha promosso lo strutturalismo, quindi la linguistica, quindi le scienze umane davvero, insomma, nella sua. E tutto questo, è questo probabilmente, oltre evidentemente al suo irriducibile carattere di scettico che salva Foucault molto probabilmente però questo è il suo. I corsi al Collège de France sono 13 e quindi tutta questa attività oggi è documentata, perché abbiamo anche, perché l'edizione italiana non è ancora completa, ma quella francese credo di sì, o manca un volume, no, l'ultimo è stato. Quindi abbiamo tutti questi, cioè i corsi al Collège de France anno per anno scandiscono la progressione di questi temi. Certamente Foucault non rimane fedele totalmente alle variazioni di programma che fanno, alcune cose studia, altre no, eccetera, perché era uno molto attento, lo vedremo anche qui, alla attualità. Però insomma, le cose che vi ho detto prima, cioè, questo non lo abbandona, diciamo, il programma rimane questo, il metodo diciamo, rimane questo. Poi chiaramente ci sono i libri, quindi c'è diciamo, i libri che escono dopo il 1970 sono Sorvegliare e punire, nel 73 mi pare La volontà di sapere nel 76 e gli ultimi due Nell'anno della morte, il 2 e il 3, i due seguiti della volontà di sapere, cioè la storia della sessualità, 2 e 3, il piacere e la purezza. È ovvio che l'insieme delle cose trattate nei corsi sono molto più vaste di quelle che riesce a mettere nei libri. E quindi è anche chiaro che siccome i corsi al Collegio di Francia sono ancora credo fatti in questo modo, cioè ogni ricercatore è obbligato a fare 24 o 28 lezioni all'anno, ma deve cambiare corso tutti gli anni, deve cambiare argomento tutti gli anni, non fa esami, i corsi sono liberi di andare chiunque, infatti in quelli di cui andava un sacco di gente, e quindi non ci poteva essere neanche dialogo, discussione, eccetera, eccetera. E quindi non c'è neanche un come dire, ritorno. Però questo permette al come dire, ricercatore, quindi anche insomma, a Foucault stesso, di cioè perché sono così interessanti i corsi, a volte proprio perché affrontano dei temi, cioè delle strade senza uscita, poi da cui non va, esce, insomma, quindi vede, come dire, si vede la vivezza di un... allora, certamente il tema del potere è un tema, si può dire, che attraversa più o meno tutti i corsi del Collège de France, però c'è un corso che è quello più di svolta probabilmente di tutti. Ed è quello, per questo abbiamo scelto diciamo, i primi 3-4 corsi sono, mi sembra, La volontà di sapere, poi l'ultimo Gli anormali, in mezzo ce n'è altri, cioè, mi sembra quello sul potere psichiatrico, sono Foucault in quella primissima fase riprende i temi della storia della follia e della nascita della clinica per rielaborarli diciamo in senso genealogico, tanto per capirci. E quindi ovviamente il problema del potere ci sono tutti i temi foucaultiani, ma sono elaborati ancora con una come dire, con una chiave per certi versi diciamo troppo timida. Il corso in cui c'è la svolta e che riorienta tutti gli altri è quello del 75-76, che si chiama Bisogna difendere la società. Ed è quello che esamineremo nell'ora che ci rimane di oggi, più o meno, e nella prossima lezione. Allora, intanto, sul titolo, perché questo vi dico, questa è una cosa banale, stupida, ma ve la devo dire perché no, non penso che nessuno di voi sia presa di questa cosa, ma ci sono delle virgolette nel titolo, ragazzi. Quindi bisogna difendere la società, non è la posizione che, diciamo, è il tema del corso Foucault, ma diciamo, non è l'auspicio che fa Foucault. Foucault non pensa che si debba difendere la società, al contrario, pensa che la si debba attaccare, destrutturare, eccetera. Ma bisogna difendere la società è un modo di dire che compare nel tutto il testo del corso una sola volta, attraverso la quale... diciamo, nella quale Foucault identifica l'atteggiamento di fondo chiamiamolo nuovo discorso del potere, nuovo, poi adesso vediamo in che senso, di cui Foucault vuole fare la genealogia. Bisogna la università inaugura un enorme lavoro di genealogia che Foucault farà partire in questo libro più o meno dall'inizio, dagli albori dell'età moderna, cioè la fine del XVII, l'inizio del XVIII secolo, perché poi si strutturerà nel strategico, ma che nella successiva invece poi andrà a cercare molto più indietro, nella pastorale cristiana e addirittura nelle tecniche della cura di sé, della ascesis degli stoici e degli epicurei, della filosofia e della società ellenistica. Però questo è l'analisi da cui parte quest'opera, da cui parte questo, scusate, lavoro. Quindi il tema fondamentale è quello del potere, ma è quello del potere visto in un modo relativamente nuovo anche per Foucault. E adesso vediamo qual è. Vi anticipo che il modo in cui vorrei leggere questa cosa, perché ragazzi non ci dimentichiamo cos'è, cioè questo corso non è un corso generale sul pensiero di Foucault, è un corso sul SCAP, genealogia del soggetto. Un'altra delle ragioni per cui ci è parso che avrei potuto scegliere tanti altri, insomma, date le prestazioni di tempo, se potete scegliere solo uno, ma per la quale questo corso è interessante, e forse proprio perché è il primo, è un po' così, è che si vede, almeno per me nel modo più chiaro, al lavoro più o meno lo schema dell'archeologia, però in senso genealogico. In altri termini, qua le nozioni foucaultiane, che ci sono parse così giustamente astratte quando le abbiamo lette nell'archeologia del sapere, di discorso e di sapere, questi due concetti che sono cardine, qua diventano concreti. Qua noi assistiamo alla nascita di un discorso, non di Foucault. Foucault ci spiega come nasce un discorso. Questo, il bisogno di difendere la società, è il discorso del potere come cambia all'inizio della, come dire, modernità. E come si costituisce un sapere che non è ancora una scienza, che non sono ancora le scienze umane, ma sono le condizioni di possibilità, le condizioni di esistenza delle scienze umane, sulla quale poi si formerà. Eccoli, qui abbiamo, se leggiamo bene questo libro, dopo aver letto l'archeologia del sapere, abbiamo credo, almeno per me è stato così, insomma, abbiamo sotto mano, sotto occhio, un esempio concreto di cos'è il discorso del Foucault, di cos'è il sapere per Foucault, perché lui ci racconta qua come si come dire, viene fuori e come nasce. Dove sta questa cosa viene, quindi noi oggi parleremo solo praticamente delle prime tre lezioni, sì o no, le altre ve le farò dopo, poi in gran parte poi riassumerò, perché non è che vi sto a spiegare esattamente come si sviluppa, insomma, però comincia così. Lui dice, sinora che cosa ho fatto? Dice, ho sviluppato una serie di ricerche che non solo erano frammentarie, ma non avevano un seguito, erano ricerche disperse e al contempo ripetitive. Ho fatto brevi accenni alla storia della procedura penale, ma dice, non trovavo delle connessioni nei 4-5 corsi precedenti. Certo, dice, si può dire che si trattava di piste, quindi era poco importante dove conducesse, potrei anzi dire che era importante che non andassero da nessuna parte, non erano non più che linee generali. Dice, però, dice, per parte mia, mi sembrava di essere come un capodoglio che salta sulla superficie dell'acqua, lasciandovi una piccola traccia incerta o provvisoria di schiuma, e lascia credere, fa credere o vuole credere o crede forse effettivamente lui stesso, che al di sotto, laddove non lo si vede più, laddove non è più scorto e controllato da nessuno, segua una traiettoria più profonda, più coerente, più ragionata. Allora, lui dice invece, no, dice adesso voglio fare una svolta. La svolta che voglio fare qual è? Dice, emerge nella ricerca contemporanea una immensa e proliferante criticabilità, cioè c'è una critica, no? Cioè la critica si è espansa, è arrivata ovunque, tutti critici, cioè l'attività della critica in senso tradizionale, e dice quindi c'è l'immensa e proliferante criticabilità delle cose, delle istituzioni, delle pratiche, dei discorsi, una serie di friabilità generale dei suoli, anche forse soprattutto di quelli più familiari, più solidi e più vicini a noi, al nostro corpo, ai nostri gesti quotidiani, ma insieme a questa friabilità e questa stupefacente efficacia delle critiche discontinue, particolari e locali, si scopre anche in realtà qualcosa che forse non era previsto all'inizio e che si potrebbe chiamare l'effetto inibitore proprio delle teorie totalitarie o in ogni caso delle teorie avvolgenti e globali. Non che queste teorie non abbiano fornito o non forniscano ancora in modo costante degli strumenti utilizzabili localmente. Il marxismo e la psicanalisi stanno lì a provarlo. Quindi sono delle teorie avvolgenti globali che però lui dice si possono usare per fare delle analisi locali, dice mica dico di no. Ma credo che esse non abbiano fornito questi strumenti localmente utilizzabili se non la condizione appunto che l'unità teorica del discorso fosse come sospesa o comunque ritagliata, lacerata, fatta a pezzi, rovesciata, spostata, messa in caricatura, derisa, teatralizzata. In ogni caso ogni ripresa degli stessi termini della totalità ha avuto un effetto frenante. In primo luogo, quindi, le cose che sono accadute dalla quindicina d'anni a questa parte mostrano, se volete, che la critica ha avuto un carattere locale, in un punto o nell'altro. E qui la critica, diciamo, locale ha operato, secondo lui, con quello che potremmo chiamare, lui li chiama, dei ritorni di sapere. Non più il sapere ma la vita, non più conoscenze ma il reale, non libri ma soldi, eccetera, eccetera, lo fa un po', prende un po' in giro là. Ma mi sembra che al di sotto di questa tematica abbiamo visto prodursi quella che potremmo chiamare, ecco, una priorità, l'insurrezione dei saperi assoggettati. Ragazzi, bisogna quando si legge questo libro, bisogna pensare a quali erano gli anni in cui è stato scritto, Questo arriva alla metà degli anni 70, quindi Foucault ha fatto, quando scrive questo ha già fatto non solo il suo 68 che ha fatto poco e male, povero ragazzo perché stava a Tunisi, ma le cose che ha fatto dopo, insomma, e Foucault ha fatto il militante nel 71 insieme con il suo compagno Daniel Defer, ha creato il gruppo Tantravan sur les prisons. Poi ha collaborato successivamente per tutti gli anni 70, nel 74 era già un po' stanco non di perché insomma si stancava a fare le cose, ma perché vedeva che era difficile, che aveva anche dei partner che erano obiettivamente quelli che erano, insomma, per esempio i gruppi maoisti o i trotskisti meno, perché erano più sdegnosi e non le volevano fare queste cose con questi intellettuali qua, ma i maoisti più di bocca buona, però dopodiché lo massacravano, facevano delle domande cretine, insomma, nell'ambito del potere c'è un incontro con Victor, che è uno di quelli che poi uno della proletaria che fa un libro con Sartre. Ma Sartre era diverso, cioè Sartre poteva anche fare un libro con questa gentaglia, scusate, ma insomma io li ho vissuti quegli anni lì, quindi i maoisti erano veramente peggiori, si chiamavano Capanna all'epoca, queste cose qua, quindi, tanto per non fare nomi. Foucault ci lavorava insieme, però non ci ha mai scritto libri, non l'ha mai potuto. Allora, quando voi leggete questa frase, abbiamo visto prodursi quella che potremmo chiamare l'insurrezione dei saperi assoggettati, pensate a questa cosa, era un'insurrezione reale, i saperi assoggettati non erano quattro intellettuali che facevano i furbi e scrivevano le cose, erano cose reali, concrete. Quando dico saperi assoggettati intendo due cose. In primo luogo voglio designare dei contenuti storici che sono stati sepolti o mascherati entro coerenze funzionali o sistematizzazioni formali. Concretamente, ciò che ha permesso di fare la critica effettiva del manicomio come della prigione non è stata certo né una semiologia della vita manicomiale né una sociologia della delinquenza, ma l'apparizione di contenuti storici. E questo per la semplice ragione che solo i contenuti storici consentono di ritrovare la rottura degli scontri e delle lotte che gli arrangiamenti funzionali o le organizzazioni sistematiche hanno appunto per scopo di mascherare. Le teorie intese in senso tradizionale, in senso kantiano, hegeliano, anche strutturalista, eccetera, non fanno altro che questo, mascherare la rottura degli scontri e delle lotte che hanno prodotto invece le emergenze. Dunque i saperi assoggettati sono questi, lui dice l'unico campo in cui possono sorgere è la storia, ovviamente se è una storia fatta in modo genealogico, non fatta negli altri modi che ho visto. Dunque i saperi assoggettati sono questi blocchi di saperi storici che erano stati presenti e mascherati all'interno degli insiemi funzionali e sistematici e che la critica ha potuto fare riapparire attraverso gli strumenti della erudizione, perché qualcuno è andato lì e si è messo a studiare e a fare un lavoro, perlomeno embrionalmente, genealogico. In secondo luogo, quando parlo di saperi assoggettati, credo che si debba intendere un'altra cosa, in un certo senso tutt'altra cosa. Con saperi assoggettati intendo tutta una serie di saperi che si erano trovati squalificati come non concettuali o non sufficientemente elaborati, saperi ingenui, saperi gerarchicamente inferiori, saperi collocati al di sotto del livello di conoscenza o di scientificità richiesto. Adesso vedete cosa vuol dire sapere per lui, cioè, perché sennò sembra... Il sapere è quel livello della conoscenza che non ha perso del tutto il proprio contatto con la pratica, il proprio contatto con la rottura, che è ancora capace di essere conoscenza ma di presentarsi come evento. La teoria, il sapere magari anche presentato come teoria locale, con tutte le cautele, eccetera, ma quando ha fatto questo, quando si presenta come episteme, insomma, tanto per usare un termine sempre foucaultiano, cambia, ha perso questo rapporto che ha con le pratiche, con la pratica. Non è più il discorso viene sussunto, usiamo un termine hegeliano pure noi, viene sussunto, viene mascherato, viene. Invece no, questi saperi erano stati squalificati ed è attraverso la riapparizione di questi saperi dal basso, di questi saperi non qualificati o addirittura squalificati, che sono quello dello psichiatrizzato, non quello dello psichiatra, il sapere dello psichiatrizzato, dell'abitante dell'ospedale psichiatrico, quello del malato, non del dottore, quello dell'infermiere, quello del medico, ma come sapere parallelo e marginale rispetto al sapere della medicina, quello del delinquente, non quello del secondino, tutti non li ho aggiunti io, non li ha scritti lui. Quel sapere che chiamerei il sapere della gente, che non è affatto un sapere comune, un buon senso, ma è al contrario un sapere particolare, locale, regionale, un sapere differenziale, incapace di unanimità e che deve la sua forza solo alla durezza che oppone a tutti quelli che lo circondano. Quindi è attraverso la riapparizione di questi saperi locali della gente, di questi saperi squalificati che si è operata la critica. Ecco come è emersa una dimensione genealogica, non perché qualche intellettuale ha detto adesso scopro la genealogia, mi rilego Nietzsche, non perché Foucault abbia fatto questo lavoro. Se Foucault fa questo lavoro è perché ha visto come ha partecipato a questo processo di emergenza dei saperi locali, di riscatto, se vogliamo usare un termine un po' romantico, insomma, di riaffermazione. Oh, ci sono anch'io, non è che la verità sulla psichiatria la può dire solo lo psichiatra perché ha la sua laurea, perché ha fatto, cioè la posso dire anch'io che sono lo psichiatrizzato, a ragione o a torto, in Unione Sovietica per esempio quasi sempre a torto. Di cosa si trattava in ambedue le forme di sapere, in quelli assoggettati e in quelli sepolti, tanto nel sapere della erudizione quanto nei saperi squalificati? Si trattava del sapere storico delle lotte, del sapere storico delle lotte. Nei settori specializzati della erudizione, come nel sapere squalificato della gente, giaceva la memoria degli scontri. quella appunto che fino ad allora era stata tenuta al margine. Si è venuta, ragazzi, questo mi pare chiaro, adesso si spiega, se non capiamo adesso cos'è la genealogia, si è venuta così delineando quella che si potrebbe chiamare una genealogia o piuttosto delle ricerche genealogiche molteplici, riscoperta meticolosa delle lotte e insieme memoria bruta degli scontri. E questo succederà quando si farà la storia del notaio, eh? Questo succederà, non i cazzo di piani generali dello Stato, l'ammodernamento, queste robe qua, ma la durezza delle lotte, il numero di lacrimogeni tirati il 12 ottobre scorso, il numero di arrestati, lo scandalo e la vergogna delle motivazioni con le quali il giudice Caselli ha chiesto ed ottenuto l'arresto di queste, quante sono, 25, non lo so, insomma. La memoria delle lotte, questa è la genealogia. E queste genealogie, come accoppiamento di sapere erudito e sapere della gente, non è stato possibile farle e neppure tentarle se non a una condizione, che fosse eliminata la tirannia dei discorsi globalizzanti con la loro gerarchia e con tutti i privilegi delle avanguardie teoriche. Oh. Finché ci abbiamo la psicanalisi, il marxismo, l'anarchismo, qualsiasi super teoria che ci guida, non possiamo fare tutto loro, non possiamo fare emergere questa, diciamo, dimensione. Che fosse eliminata la tirannia dei discorsi globalizzanti con la loro gerarchia e con tutti i privilegi delle anomalie teoriche. Chiamiamo dunque genealogia, se volete, l'accoppiamento delle conoscenze erudite e delle memorie locali. Accoppiamento che permette la costituzione di un sapere storico delle lotte e l'utilizzazione di questo sapere all'interno delle tattiche attuali. L'utilizzazione di questo sapere all'interno delle tattiche attuali. Non è che bisogna fare un tubo. Cioè, bisogna... Sarà dunque la definizione, sarà dunque questa la definizione provvisoria delle genealogie che ho cercato di fare insieme a voi nel corso degli ultimi anni. Adesso faccio un salto e vi leggo, perché non sono tanti i passaggi, diciamo, metodologici. Questo che ho letto adesso è il primo grosso nel corso. Adesso vediamo ad un altro che si capirà meglio quando la prossima volta ripercorrerò, però intanto vediamolo ora, perché non... grosso modo torna sempre alla... lui, insomma, dice che c'è un discorso, questa volta discorso è un termine Foucaultiano, cioè va letto in senso Foucaultiano, è il discorso come l'ha definito lui nell'archeologia. C'è un discorso che è stato tenuto strutturalmente ai margini dal discorso dei filosofi e dei giuristi. Adesso poi quando vi dirò questa cosa, la novità di questo corso è che per la prima volta si tenta un'analisi del potere, in termini non giuridici o di sovranità, che cos'è che rende legittimo o illegittimo il potere, quali sono i discorsi generali sulla sovranità, di chi ha la sovranità, eccetera, ma dal basso le relazioni, i rapporti di forza, le relazioni di potere, il modo in cui, tutto il libro è destinato a capire come sono questi rapporti dal basso, queste relazioni di potere, che poi determinano l'emergere delle grandi teorie della sovranità, del diritto, che lui non è che dice che non bisogna fare, va bene, si può fare, però dice la loro origine non posso partire dalla sovranità per capire la società, non posso partire dal soggetto per capire le sue azioni, devo fare il contrario, devo partire da ciò che uno fa, da ciò che, e quindi da come si strutturano i rapporti di forza, i rapporti di potere, per poi eventualmente, se voglio, ma naturalmente saprò già che sono taroccati fino dall'inizio, costruire i discorsi, diciamo, generali. Allora dice, c'è questo discorso che è tenuto ai margini. Sono inoltre convinto che a partire dalla fine del secolo XVI, all'inizio del XVII, si sia notevolmente sviluppato questo, diciamo, discorso, che è una contestazione sia popolare che aristocratica del potere reale, del potere del re, quindi vedremo poi. È una roba di storia politica, di storia e di teoria politica. è che la sua superficie di espansione di questo discorso marginalizzato di contestazione del potere reale sia stato la sua superficie di espansione sino alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo sia stata considerevolmente rapida. E qui arriviamo a un'altra bestia nera di Foucault. Non bisogna credere però che la dialettica possa funzionare come la grande riconversione in ultima istanza filosofica di questo discorso. Se di primo acchito la dialettica può anche apparire come il discorso del movimento universale storico della contraddizione e della guerra, credo tuttavia che in realtà essa non ne sia affatto la convalidazione filosofica. Mi sembra al contrario che essa, la dialettica, abbia funzionato piuttosto come suo spostamento e ripresa all'interno della vecchia forma del discorso filosofico-giuridico. In fondo la dialettica codifica la lotta, la guerra e gli scontri all'interno di una logica, o sedicente tale, della contraddizione, no? Io sono contro di te, ci confrontiamo, ci scambiamo, io affermo me stesso, tu mi neghi, poi però questa contraddizione alla fine riconosce il fondo comune, cioè il lavoro della negazione, bla bla bla, insomma arriviamo lì. Mi sembra piuttosto che essa abbia funzionato. In fondo la dialettica codifica la lotta, la guerra, gli scontri all'interno di una logica, o sedicente tale, della contraddizione. Essa li ricomprende nel duplice processo di totalizzazione e di aggiornamento di una razionalità insieme finale e fondamentale, in ogni caso irreversibile. Quando la razionalità si determina in connessione con questo sapere sovrastorico, quindi o come trascendentale, come a priori, non la puoi più cambiare, non puoi più farla, è irreversibile, ti sei fottuto con le tue mani, insomma, perché già, ok, ma c'è questo, ormai, in ogni caso irreversibile. La dialettica, infine, assicura la costituzione, eccolo qua, attraverso la storia, di un soggetto universale, di una verità riconciliata, di un diritto in cui tutte le particolarità avranno finalmente il loro posto ben ordinato. La bottega della pecora di Lewis Carroll in Alice attraverso lo specchio, dove ci sono tutte le merci, ma in Alice attraverso lo specchio, ahimè, c'è una cosa che Alice segue con l'occhio che si sposta costantemente di scaffale e Alice non la trova mai. La cosa che l'oggetto di Alice misterioso che si sposta è incompatibile con la dialettica alla fine rimette tutto a posto, non c'è più l'oggetto che non si sposta, perché ho fatto il lavoro del negativo, tesi, antitesi, sintesi, eternità, poi certo di nuovo si ripercorre perché è per l'eternità, ma voi vedete che razza di pensiero mummificato è questo della dialettica. La dialettica hegeliana, e con essa penso tutte quelle che l'hanno seguita, deve essere compresa, ed è ciò che cercherò di mostrarvi, come la colonizzazione e la pacificazione autoritaria da parte della filosofia e del diritto di un discorso storico-politico che è stato a un tempo una constatazione, una proclamazione e una pratica della guerra sociale. La dialettica ha colonizzato questo discorso storico-politico che ha tracciato il suo cammino nel corso di secoli in Europa, talvolta con clamore, talvolta nella penombra, talvolta nella erudizione, talvolta nel sangue. La dialettica è la pacificazione da parte dell'ordine filosofico e forse anche da parte dell'ordine politico del discorso amaro e partigiano della guerra fondamentale, che è quello che affronteremo, che spiegherò meglio, spero la volta prossima, chi ha già letto il testo sa di cosa si parla. Ecco dunque il quadro di riferimento generale all'interno del quale quest'anno vorrei collocarmi per rifare a grandi linee la storia di questo discorso. Terza ed ultima citazione metodologica, anche questa forse la si capirà meglio dopo, ma intanto diciamola perché spiega come Foucault ha strutturato questo e perché è così importante questo corso anche nella ricerca foucaultiana. Differenza tra la storia delle scienze e la genealogia dei saperi, cioè l'ha già fatta varie volte questa cosa, quando spiega nell'archeologia del sapere che l'archeologia, diceva allora, non è la storia delle idee, eccetera, eccetera, è molto simile. Ciò che distingue quella che si potrebbe chiamare la storia delle scienze dalla genealogia dei saperi è il fatto che la prima, la storia delle scienze, si situa per l'essenziale su di un asse che è grosso modo l'asse conoscenza-verità e che va in ogni caso dalla struttura della conoscenza all'esigenza della verità. Conosco. Come conosco? Quali sono i miei strumenti? Ho questi metodi, arrivo a dire il lavoro, arrivo a scoprire e quindi a poter dire la verità. Benissimo, questo è l'asse, ogni storia delle scienze che voi, diciamo, leggete è costruita così, no? Come dall'errore, dalle cose, del pensiero fissista, biologico, di Linneo, e poi dell'evoluzionismo ingenuo, funzionalista di Lamarck, è sbocciata alla fine la teoria che metteva tutto a posto, che dava le cose, che è quella dell'evoluzione di Darwin. Come dalla pochezza e dalla ingenuità della fisica aristotelica e della teoria tolemaica e i suoi terribili errori, è nata dapprima l'ipotesi copernicana e poi alla fine Galileo e Newton che ci hanno portato, salvo poi a essere smentiti pure loro da Einstein e da altre persone, ma insomma, diciamo, questa è la storia delle scienze, l'asse conoscenza-verità. Quindi un asse che va dalla struttura della conoscenza all'esigenza della verità. La genealogia dei saperi si situa invece su un asse del tutto diverso, opposto a quello della storia delle scienze. L'asse discorso-potere, oppure, se volete, l'asse pratica-discorsiva scontro di potere. Ora mi sembra che quando si applica a quel periodo, privilegiato per tutta una serie di ragioni, a quell'ambito, a quella regione che è il XVIII secolo, la genealogia dei saperi debba innanzitutto eludere la problematica dei lumi. Come si è descritta la scienza, l'episteme che è nata da questa cosa, come ha occultato l'asse pratica discorsiva scontro di potere, come ha trasformato questo rapporto tra la pratica discorsiva e lo scontro di potere in una narrazione della luce della ragione che sconfigge le tenebre dell'errore. Questo ha fatto. Questa è la ricostruzione in termini illuministici che ha fatto Kant, di fatto, Kant, insomma, tanti altri, ma insomma di cui Kant può essere assunto come. Deve cioè sventare, il discorso genealogico, deve sventare tutto quello che da allora, e del resto anche nel XIX e nel XX secolo, è stato descritto come il progresso dei lumi, la lotta della conoscenza contro l'ignoranza, della ragione contro le chimere, dell'esperienza contro i pregiudizi, dei ragionamenti contro l'errore, e così via. Insomma, bisogna sbarazzarsi, credo, di tutto quello che è stato descritto e simbolizzato come il cammino del giorno che dissipa la notte. Dove sei. E che per contro bisogna percepire nel corso del XVIII secolo, quindi del Settecento, qualcosa di assai diverso dal semplice rapporto tra la luce e le tenebre, tra la conoscenza e l'ignoranza. Un immenso e molteplice combattimento, non tanto tra conoscenza e ignoranza, ma dei saperi, gli uni contro gli altri, dei saperi che sono in reciproca opposizione a causa della loro specifica morfologia, a causa del rapporto tra quelli che ne sono i detentori, nemici gli uni rispetto agli altri e a causa dei loro effetti di potere intrinseci. A me mi pare che è spiegato chiaramente qua che cos'è il progetto, diciamo, genealogico e quali sono le cose che interessano a, come dire, Foucault. Ripeto, attenzione, allora qui cerchiamo di... C'ho il tempo, sì. Foucault non dice che i discorsi delle grandi teorie, che queste ricostruzioni siano mendaci, siano ingannevoli, non vadano fatti. Dice, vanno bene, però perché a lui non interessano? Qual è la vera ragione? Qual è non in termini psicologici evidentemente, qual è la motivazione foucaultiana nell'intestardirsi a volere... è una, no, no, no, non so, almeno a me non pare tanto tanto difficile, è la ripresa di una delle buone intenzioni di Marx, secondo me, buone intenzioni, ottime intenzioni di Marx, ancorché forse non realizzata nel modo migliore. Ma quando Marx dice che la dialettica hegeliana va presa, rovesciata, messa con i piedi per terra, cosa dice, che cosa, diciamo, diceva anche lui, questo mi pare una ripresa di un tema marxista, marxista dal punto di vista delle, diciamo, intenzioni, Foucault, che ha una sua ragion d'essere, adesso vediamo quale. Ed è quella, ed è la stessa ragione per la quale ve lo dico in modo, adesso speriamo poi spero poi nel libro di pensarci meglio anch'io, di poterlo approfondire, ma insomma adesso la posso solo enunciare, perché la filosofia e il pensiero di Foucault è fortemente compatibile con una storia naturale dell'uomo, con una storia biologica, con il legame, perché è una teoria che non vuole staccare, che come dire, che non vuole descrivere in termini autorappresentativi i piani alti della casa, I piani alti della casa stanno sui piani bassi, stanno sulle fondamenta, se non ci sono le fondamenta, se non ci sono i piani bassi, l'attico, lo splendore delle luminarie, della grande sala delle feste del padrone di casa, crolla, se ne va. È difficile spiegare come è stata fatta la casa parlando solo dei piani alti, non è possibile. È impossibile parlare del linguaggio senza tenere conto delle sue origini biologiche e quindi anche probabilmente delle sue ragioni come evolutive. Cioè se una specie come Homo sapiens ha potuto stabilirsi su questo pianeta da poco tempo, vabbè, certamente forse poi si estinguerà, ma fossero anche solo 200.000 miserrimi anni di esistenza sul pianeta che ci siamo conquistati a prezzo del milione e mezzo di anni precedenti di tutte le altre specie che ci hanno precedute, naturalmente, perché siamo sempre nani sulle spalle di giganti. Ma una ragione ci sarà da un punto di vista evolutivo, o vogliamo dire no, il linguaggio si è affermato perché è tanto bello, perché consente di fare, perché fa la Divina Commedia, Luis de Joyce, che è una ragione pura, le poesie della Szymborska, il linguaggio, ma tutte queste cose sono non servono a nulla direttamente. Benissimo, ci sono state, perché ovviamente il linguaggio è uno strumento così sovrabbondante, così potente, così è, che permette anche di fare queste cose, ma viva Dio! Ci sarà una ragione specifica, ci sarà una ragione per la quale questa specie, per la quale il linguaggio è stato per noi una forma di adattamento vincente, che poi probabilmente reca con sé anche i germi della propria, come dire, risoluzione. Può essere che sia così, non lo so. Ora, a me pare, Foucault non ha mai fatto un lavoro del genere. Se fossi giovane, se avessi la testa e gli anni per farlo, forse lo farei, di riscrivere tutto, insomma, una parte di quello che ha fatto Foucault in termini di storia naturale, cioè in termini di biologia, di storia biologica della specie, di cosa che nessun biologo oggi è in grado di fare, perché i biologi non leggono Foucault, non gliene frega nulla, leggono poco anche di altro, ma insomma, e poi sono sedotti anche loro dalle grandi teorie generali, anche leggete Jacob, leggete, insomma, le cose. L'unico forse che poteva farlo, perché uno che era molto attento alle cose, era Stephen Jay Gould, ma Gould non ha mai incontrato Foucault nella sua, non l'ha mai incontrato, insomma, non, almeno che io sappia, però non so, non lo conosco abbastanza bene. Allora, per tornare, mi pare che la vera ragione, quindi, per la quale Foucault sceglie l'approccio genealogico, sia questa, sia che vuole rivalutare quello che ha sempre detto poi nella sua famosa battuta sulla cassetta degli attrezzi, cioè la filosofia come le cassette sono delle cassette degli attrezzi, sono degli strumenti che noi abbiamo usato per fare delle cose. E per fare che cosa? In primo luogo per sopravvivere su questo pianeta. Questa è la nostra vocazione, come dire, insomma, diciamo, biologica di base. Allora, enunciamo, a questo punto posso, dopo che vi ho dato queste tre cose, diciamo, generali, posso solamente enunciare, diciamo, il tema del corso, però qualche cosa abbiamo il tempo di dirlo almeno sulla... Allora, nella prima lezione, che non è inutile da dare sole date, nella prima lezione del corso, Foucault promette una cosa che poi non farà. Dice, vorrei partire perché spesso anch'io negli anni, e probabilmente pensava a sorvegliare e punire, che era l'arrivo più importante, che era uscito 2 anni prima che lui che facesse il corso, ho spesso parlato, è partito dai saperi assoggettati, quindi ho parlato di come l'organizzazione generale dello Stato, eccetera, ha represso questi saperi. Quindi il tema di repressione, dice spesso, parlato di repressione, eccetera. Dice adesso mi pare insufficiente, dice, questo approccio della repressione, però ne parliamo ancora un po', poi in realtà non ne parla della, come di repressione. Perché gli pare insufficiente l'approccio della repressione? Perché non tiene conto di ciò che si osserva davvero, lui dice, nelle pratiche di potere. Le pratiche di potere, dice verso la fine della prima, diciamo, lezione, sono qualcosa di più di una semplice coercizione verso gli esseri umani perché non facciano certe cose. Nel potere c'è sempre, dice lui, una dimensione, chiamiamola positiva, nel senso non che sia, non nel senso del giudizio morale, insomma, ma di creazione. Il potere crea sempre qualche cosa, anche quando reprime, non si limita mai soltanto a dire... In questi mesi, probabilmente lui sta finendo di correggere il libro che uscirà nel 76, che è La volontà di sapere, la cui tesi fondamentale è la storia della sessualità nell'epoca moderna non è affatto una storia di repressione, la sessualità non è repressa, è utilizzata, certo, ma non c'è il silenzio, non c'è l'interdetto come la vulgata marxista e freudista accoppiata insieme diceva, ci impediscono di parlare del sesso, parliamo del sesso, liberiamoci, parliamo. Ma come parliamo nel fallo? Se ne parla già fin troppo, dice, tu quando vai a confessarti devi dire tutto, tutte le cose più minute sulla tua attività sessuale al tuo confessore, capisci? Quindi c'è una super produzione, e quindi c'è questa, che poi bisogna vedere come è distribuita, che effetti ha, diciamo, ma la cosa di base, e quindi dicevo, quindi allora, e come fare a analizzare, diciamo, i rapporti di potere? I rapporti di potere, dice lui, quindi non possono essere analizzati, studiati con l'ipotesi della sovranità, cioè c'è una funzione sociale che si chiama sovranità, che può essere di una singola persona o di tutto il popolo, eccetera, ma c'è la sovranità. La sovranità esercita il potere e assoggetta, fa diventare soggetti della gente nel duplice senso, che diventano soggetti nel senso filosofico e soggetti nel senso di assoggettati, e abbiamo capito. Dice no, tutto questo non basta. All'inizio della seconda lezione dice, mi sembra prima di tutto che la teoria della sovranità cerchi necessariamente di costituire quello che chiamerei un ciclo. Il ciclo che va dal soggetto al soggetto, mostrando in che modo un soggetto, inteso come individuo dotato naturalmente o per natura di diritti, capacità, eccetera, possa e debba diventare soggetto, inteso questa volta come elemento assoggettato all'interno di un rapporto di potere. La sovranità è pertanto la teoria che va dal soggetto al soggetto, che stabilisce il rapporto politico del soggetto con il soggetto. In secondo luogo, mi sembra che la teoria della sovranità si sia dotata in origine di una molteplicità di poteri che non sono tuttavia dei poteri nel senso politico del termine, ma delle capacità delle possibilità, delle potenze, e che può costituire come poteri, nel senso politico del termine, solo a condizione di avere nel frattempo stabilito tra le possibilità e i poteri quel momento di unità fondamentale e fondatrice che è l'unità del potere. Se non c'è l'unità del potere, tutte queste potenzialità non possono diventare pezzetti del dispositivo, aggiungo io, si potrebbe dire, perché qualche anno dopo userà il termine dispositivo. Poco importa che questa unità del potere assuma il volto del monarca oppure la forma dello Stato, poiché in ogni caso è a partire da questa unità del potere che deriveranno le diverse forme, i differenti aspetti, meccanismi e istituzioni di potere. La molteplicità dei poteri, intesi come poteri politici, può essere stabilita e può funzionare solo a partire da questa unità fondata dalla teoria della sovranità. In terzo luogo, mi sembra infine che la teoria della sovranità mostri, o almeno cerchi di mostrare, come un potere può costituirsi non tanto esattamente secondo la legge, ma secondo una certa legittimità fondamentale, legittimità più fondamentale di tutte le leggi, una sorta di legge generale di tutte le leggi, che può consentire alle differenti leggi di funzionare come tali. In altri termini, la storia della sovranità, e qui sintetizza, rappresenta il ciclo dal soggetto al soggetto, il ciclo del potere e dei poteri, il ciclo della legittimità e della legge. Mi sembra che in modi diversi la teoria della sovranità presupponga comunque il soggetto, miri a fondare l'unità essenziale del potere e si sviluppi nell'elemento preliminare della legge. Triplice primitività dunque, quella del soggetto da assoggettare, quella dell'unità del potere da fondare e quella della legittimità da rispettare. Soggetto, unità del potere e legge sono, credo, gli elementi tra i quali gioca, e che però al tempo stesso cerca di assume e cerca di fondare, la teoria della sovranità. Il mio progetto, che però abbandono immediatamente, era dimostrarvi come lo strumento di cui l'analisi politico-psicologica si è dotata da ormai circa 3-4 secoli, vale a dire la nozione di repressione, e che mi sembra piuttosto ricavata dal freudismo o dal freudo-marxismo, si iscrivesse in realtà all'interno di una decifrazione del potere che veniva effettuata in termini di sovranità. Ma dato che tutto ciò che l'avvocato ci avrebbe indotto a riflettere su cose già dette, è preferibile, dice. E quindi dice, voglio vedere se è possibile parlare, studiare, indagare il dispositivo, il termine dispositivo non c'è in questo saggio, ma in questo corso, noi possiamo benissimo dire così, il dispositivo di potere partendo da un'altra ipotesi, e cioè dall'ipotesi della guerra, che il potere si fondi sulla guerra. Nella volontà di sapere, la cosa è detta in termini ancora più chiari. La condizione di possibilità del potere, qui parla della sessualità, però poi è chiaro che parla, adesso parla in generale del potere. La condizione di possibilità del potere, o comunque il punto di vista che permette di rendere intelligibile il suo esercizio, fini e suoi effetti più periferici, e che permette anche di utilizzare i suoi meccanismi come una griglia di intelligibilità del campo sociale, non bisogna cercarlo nell'esistenza originaria di un punto centrale, un centro unico di sovranità dal quale si irradierebbero delle forme derivate e discendenti. È la base mobile dei rapporti di forza che inducono senza posa, per la loro disparità, situazioni di potere, ma sempre locali e instabili. Onnipresenza del potere, non perché avrebbe il privilegio di raggruppare tutto sotto la sua invincibile unità, ma perché si produce in ogni istante, in ogni punto, o piuttosto in ogni relazione tra un punto e un altro. Il potere è dappertutto, non perché inglobi tutto, ma perché viene da ogni dove. È il potere, in quel che ha di permanente, di ripetitivo, di inerte, di autoriproduttore, non è che l'effetto d'insieme che si delinea a partire di da tutte queste mobilità, la concatenazione che si appoggia su ciascuna di esse e cerca a sua volta di fissarle. Bisogna probabilmente essere nominalisti. Il potere non è un'istituzione e non è una struttura, non è una certa potenza di cui alcuni sarebbero dotati. È il nome che si dà a una situazione strategica, complessa, in una società data. E adesso viene la domanda birichina. Bisogna allora capovolgere la formula e dire che la politica è la guerra continuata con altri mezzi? la cosa è formulata così qua, in modo molto... Nel corso ci dedica molto più tempo. La formula, sapete tutti di chi è quella di Clausewitz, che però dice il contrario. La guerra è la politica continuata con altri mezzi. Foucault propone in un primo tempo di rovesciare questa massima di Clausewitz, di dire no, non è la guerra, è la politica che è la guerra continuata con altri mezzi. È la politica che in qualche maniera fa uso sempre di un dispositivo, diciamo, guerresco. Se ci pensate, se avete letto Mille Piani, è più o meno la stessa cosa che dicono Deleuze e Guattari in Mille Piani, nel capitolo sul nomadismo e sulla macchina da guerra dei nomadi, grosso modo. Ma l'astuzia, l'astuzia o l'intelligenza di Foucault fa subito un altro passo, non è tanto interessato a vedere come è possibile decostruire o rovesciare la formula di Clausewitz, perché lui sa bene che se vuole fondare in qualche modo un discorso sul potere, sui rapporti di potere fondato sulla guerra e non sulla sovranità, sul modello della guerra e non sul modello della sovranità, quello che deve mostrare non è che bisogna rovesciare la formula di Clausewitz, ma al contrario, che Clausewitz ha rovesciato ai suoi tempi una formula che era l'opposta. La formula, virgolette, originale, quindi, non è quella di Clausewitz. È Clausewitz, esattamente come vi ho appena letto, come dice che le teorie generali, eccetera, sussumono, si appropriano, rielaborano, interpretano e irrigidiscono le teorie, diciamo, i saperi locali, i saperi assoggettati e li inseriscono in questa nuova modalità, esattamente come fa il Capitale, secondo Marx, che prende il lavoro vivo e sotto forma di lavoro morto lo inscatola e permette alla macchina produttiva di funzionare, esattamente in questo modo, esattamente in questo non c'è nessuna differenza, non c'è nessuna, diciamo, divaricazione. Esattamente in questo modo la forma di Clausewitz non sarebbe altro che il riflesso, la rilettura, la ideologizzazione di un qualcosa che Clausewitz molto probabilmente aveva ancora ai suoi tempi presente e che è quello che Foucault si dedicherà a descrivere in tutto questo. Farà due esempi fondamentali. In primo luogo si sbaraccerà di due modelli, perché dice, ragazzi, attenzione però, ed è giusto, dice, ah sì, ma c'è già qualcuno che lo ha detto, che la politica è una guerra fatta con altri mezzi, no? E sono Hobbes e Machiavelli, certo. Ovviamente Hobbes e Machiavelli lo hanno detto all'interno della sovranità, all'interno di una, diciamo, teoria della sovranità, un po' diversa tra i due, ma tutti e due dentro questa teoria. Ma Foucault fa di più, Foucault non si limita a dire che sarebbe stato troppo facile. Foucault spiega benissimo come dire, per Machiavelli è facile, ma per Hobbes è più difficile, perché Hobbes ha questa formula della guerra di tutti contro tutti, e Foucault, devo dire, elegantissimamente dimostra, e ve lo farò vedere la prossima volta, che non ci ha fatto la guerra in Hobbes, non c'è nessuno stato di guerra originaria, nello stato di natura di Hobbes nessuno si fa, tutti pensano alla guerra, ma nessuno se la fa, perché sono tutti paralizzati dal fatto che gli altri potrebbero farla, ma non la fa nessuno realmente. Mentre, dice lui, a me mi interessa andare a vedere dove la guerra si è fatta davvero, e dove la trova allora? La trova nell'Inghilterra, della rivoluzione, insomma, della prima rivoluzione borghese del 1600, degli anni intorno al 1630, altra cosa, diciamo, geniale, e poi 50 anni, 60 anni dopo, alla fine del 600, primi del 600, in Francia. E dove trova questo discorso della guerra? È la fatto in funzione polemica contro il potere statale, quindi contro la sovranità. E quindi, attenzione, non solo le teorie di Foucault, non solo le fantasticherie di Foucault, ecco, vedrete che c'era un discorso, nei termini polziani, fatto da altri, non ricostruito da Foucault. Foucault fa parlare fa parlare, certo, non Ops, ma che per causa di quelli hanno già fatto il rovesciamento, fa parlare quelli che stanno dentro i saperi, diciamo, locali. Beh, la cosa buffa ma molto interessante è che questa rivendicazione anti-centralizzatrice non la fanno, sì, la fanno anche i Leverless e i Diggers nell'Inghilterra puritana, la fanno anche i movimenti rivoluzionari, la fa anche il Terzo Stato, diciamo, in Francia, e la fanno anche i movimenti, ma soprattutto la fanno i nobili. È la reazione nobile, lui mostra che è nella reazione nobiliare dei nobili contro il potere centrale dei re che nasce, che si esplicita per la prima volta, che viene costruito pezzo per pezzo, piano piano, questo discorso di una guerra che ci sarebbe stata, di una guerra che, attenzione, c'è stata un tempo, certo, ma non è solo nelle origini, che continua ad attraversare la società. E quindi il centro di questo, di questo corso è la storia della guerra delle razze. È il discorso della razza. Tutti questi autori dicono, ci sono due razze all'origine, sono due razze perché prima c'eravamo noi, poi sono arrivati gli altri, o prima c'erano gli altri, poi sono arrivati noi, cioè è una storia di invasioni, quindi di guerra. Questa invasione però, ecco, dice, questa è una cosa nuova, e lui questo lo chiama il discorso storico-politico, il discorso storico-politico, discorso, insisto, questo è il discorso foucaultiano, qua vediamo come si costruisce il discorso, come Foucault costruisce, come ricava, come da un'analisi storica ricava questa, quindi il storia delle razze, e perché fa tutta questa roba? Perché gli interessa arrivare all'oggi, e dice, guardate che poi questa cosa ha cambiato, è mutata, però è da lì che viene, e ha fondato il razzismo del XIX e del XX secolo, e parla del nazismo e spiega, viva Dio, uno dei pochi che sono stati capaci di fare un vero discorso sul nazismo, che, come dire, il nazismo non è stato affatto un incidente di percorso, un incidente storico, una degenerazione, uno scarto dalla retta via del bellissimo progresso della società occidentale, ma è, affonda le proprie radici, è semplicemente il nazismo, dice, è stato semplicemente l'espressione più coerente, più lucida, portata sino alle estreme conseguenze delle premesse del discorso storico-politico sulla guerra delle razze che è nato e di cui, dice, destra e sinistra sono stati, dice, c'è razzismo nel socialismo storico, ce n'è a bizzeffe, ce ne sono, è una bugia che i socialisti classici non fossero, erano altrettanto razzisti e altrettanto, questo lo sapeva benissimo, cioè voglio dire, quando Marx scrive di Judenfrage nel 1840 e Soarotti affronta già questo, e poi lui l'affronta in un modo molto probabilmente, insomma, che era meglio se non lo faceva, da come l'aveva messo, è uno dei libri più hegeliani che ci siano di Marx, la questione ebraica. Però il tema c'è e si capisce, e poi viene dalle cose. Allora, è la bellezza di questo corso è che finisce proprio con questa cosa sul nazismo, quindi spero la volta prossima di mostrarvi a grandi linee lo svolgersi dell'argomentazione, diciamo, serata, e quindi vedrete, spero, per la prima volta come nasce, come si sviluppa e come si presenta un discorso, il discorso della guerra, il discorso della guerra delle razze in maniera in questo modo di Foucault. Grazie per l'attenzione.